Essere e benessere di Nicoletta Carbone. È arrivato il nostro momento, vi ringrazio per essere con noi e benvenuti. Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Colon, le regole per una corretta prevenzione. Calazio, quel piccolo e fastidioso rigonfiamento sulla palpebra. Scoperto un gene che favorisce l'insorgenza della SLA. Il cuore delle donne si controlla così. Colon, è del nostro colon che parleremo oggi, lo abbiamo fatto più volte e torniamo volentieri a farlo. Ripetita iuvant, perché se conoscere le regole di prevenzione aiuta, ed è un nostro dovere saperle, rispettarle può farle davvero la differenza, può salvarci la vita. Parliamoci chiaro, il tumore del colon conta ogni anno in Italia 40.000 nuovi casi. Questo vuol dire che ogni giorno all'incirca a 120 persone viene data una diagnosi. Vi riporto questi dati per dire che quello del colon è un tumore dai grandi numeri. Non credo però aiuti a sapere a che punto si colloca nella hit parade delle malattie mortali. Mi piace invece piuttosto, e credo sia anche più efficace, sottolineare che a differenza di altri tipi di tumore, oltre il 90% dei pazienti con carcinoma colorettale, grazie ad una diagnosi precoce e a un trattamento tempestivo, potrebbe andare incontro a guarigione. Di questo parleremo nel corso della trasmissione col professor Roberto Labianca, direttore del Dipartimento di Oncologia e Ematologia agli ospedali riuniti di Bergamo. Professor Labianca, buongiorno e bentornato. Buongiorno. In linea con noi abbiamo anche il dottor Paolo Ravelli, primario dell'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'azienda ospedaliera Bolognini di Seriate in provincia di Bergamo. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora, un gastroenterologo e un oncologo, due esperti a nostra disposizione per aiutarci a capire l'importanza della prevenzione, aggiornarci sulle possibilità diagnostiche e sui tempi con cui effettuare i controlli, ma anche pronti a parlarci delle nuove terapie. Professor Labianca, come oncologo, con quale messaggio vuole aprire la puntata? Intanto rilancio subito la palla al dottor Ravelli, perché sottolineo l'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce, di cui lui è artefice principale, e devo dire che quella alta percentuale che lei ha detto sarà sempre più possibile quanto più ci sarà davvero una diagnosi precoce. Poi, come oncologo medico, vorrei dire che le terapie hanno fatto dei passi avanti significativi, poi ne parleremo, e questo aiuta ulteriormente a migliorare la guarigione dei nostri pazienti. Dottor Ravelli, passo a lei la parola, la palla. Sì, quando io affronto il problema del tumore del colon, mi piace sempre affrontarlo con molto ottimismo, perché è un tumore sul quale noi abbiamo grandi possibilità di fare bene le cose e di portare veramente la maggior parte dei pazienti a guarire. Di fatto, di quelle 120 persone diagnosticate ogni giorno in Italia, già una buona percentuale è destinata a guarire di tumore del colon, perché, come dico, è una malattia relativamente curabile. Allora, se noi siamo attenti, riusciamo a ottenere veramente grandi vantaggi, anche se oggettivamente, come ha detto giustamente, è una malattia dei grandi numeri. Dottor Ravelli, allora stiamo attenti, iniziamo a fare attenzione a dei sintomi che potrebbero magari farci sospettare qualche problema al nostro colon. Due concetti molto importanti. Nel tumore del colon, ovviamente, l'inizio della malattia non è mai in età molto giovanile, quindi parliamo di cominciare a stare particolarmente attenti ai nostri disturbi intestinali, anche modesti, dopo i 50 anni, intorno ai 50 anni, da quel momento in avanti. Sì. E il primo disturbo che subito deve farci, in un certo senso, allarmare, sempre fra virgolette, è la perdita di un pochino di sangue rosso nelle feci. Sì. Sangue nelle feci non deve essere mai presente, quindi quel minimo accenno è subito un segnale di relativo allarme. Altri segnali, dottor Ravelli? Altri segnali, ovviamente, questi un pochino meno facili da cogliere, forse anche un pochino meno precoci, disturbi come i dolori addominali, un vuotamento intestinale non perfettamente regolare, o un cambiamento delle proprie abitudini intestinali e un certo malessere generale, una perdita di peso, quindi qualcosa che fa capire che sta succedendo un modesto peggioramento delle nostre condizioni addominali.

Certo, sì, è fastidioso perché prima di tutto non abbiamo una terapia specifica che lo faccia regredire in termini brevi. Se si va dall'oculista, ecco, si hanno prescrizioni molto diverse. Chiaramente l'antibiotico non serve se non c'è l'infezione, se non è un orzaiolo l'antibiotico assolutamente non serve. Mm. Gli oculisti spesso danno il cortisone, il cortisone è un ottimo antinfiammatorio e certamente la componente infiammatoria un po' la riduce, però il calazio non è che regredisca completamente. I vecchi rimedi della nonna sono ancora prescritti, come per esempio si sente dire faccia impacchi con la camomilla, faccia impacchi col tè, si sentono un po' tutte queste cose che possono essere più o meno utili. Molto diffuso è l'uso anche così, non solo nel nostro paese ma anche all'estero, di pomate a base di zinco di mercurio, l'ossido giallo di mercurio è molto utilizzato. E funziona? È variabile, alcune volte si ha una buona risposta, altre volte invece l'infiammazione diventa cronica, si forma questo nodulino più o meno fastidioso che sta lì e allora è opportuno ricorrere a una terapia chirurgica, cioè si svuota direttamente questo granuloma e chiaramente regredisce totalmente la patologia, insomma. Vorrei una risposta per Carla da Rovigo che ci scrive: ho un orzaiolo, credo non sia un calazio dalla vostra descrizione, posso mettere le lenti a contatto o è meglio per un paio di giorni evitarle? No, è meglio evitarle quando la palpebra o la congiuntiva sono infiammate. Le lenti a contatto le lasciamo un attimo riposare, inforchiamo gli occhiali. Però professor Cruciani, quello che possiamo dire di questo calazio e proviamo con le pomatine locali, se il problema persiste l'oculista è la persona più indicata per suggerirci se è il caso di intervenire chirurgicamente. Perfetto, sì. Ho imparato. Professor Cruciani, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, grazie a lei e ai radioascoltatori. Pronto soccorso. E riprendiamo il tema del giorno, parliamo di colon. Può ammalarsi, infiammarsi, diventare sede di polipi, in alcuni casi di tumore. La prevenzione, l'abbiamo detto, lo diciamo praticamente ogni giorno, è fondamentale e può cambiare radicalmente il decorso e l'esito della malattia. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Labianca e il dottor Paolo Ravelli. Io riprenderei velocemente i sintomi che ci avete, descritto come possibili segnali di un colon che va controllato. Siete d'accordo, dottor Ravelli? Certamente sì. Certamente allora, sì. Iniziamo perché potrebbero essere anche interpretati come segnali di qualcos'altro che nulla a che fare con il colon. Andiamo al sangue subito, al sintomo che lei ha descritto per primo, il sangue nelle feci. Sì, sangue nelle feci ovviamente, parliamo di sangue evidente e quasi sempre i pazienti, anche in età più giovanile, interpretano questo sanguinamento come un banale sanguinamento da emorroidi. Sì. Per la verità questo per lo più è vero, ed è vero che è il sanguinamento intermittente legato a questa patologia o a patologie più banali dell'ultimo tratto del retto è la causa principale più frequente. Ciò non vuol dire che davanti a un disturbo di questo tipo, quando l'età comincia a diventare l'età relativamente a rischio, come abbiamo detto, convenga non dare per scontato questo tipo di risposta al sintomo, ma comunque approfondire. Perché certo. Bisogna essere certi che la causa sia una causa banale e non qualcos'altro. Dottor Labianca, professor Labianca, abbiamo anche parlato del cambiamento delle abitudini intestinali. Sì, diciamo che quando insorge un'improvvisa stitichezza o quando c'è un'alternanza, come noi diciamo, dell'alvo, quindi si alternano periodi o giorni di diarrea a giorni di stitichezza, in un intestino che prima funzionava in un modo più regolare, anche questo è uno di quei segnali di allarme che dobbiamo interpretare. Poi ci sono ovviamente persone che invece sono sempre stitiche per tutta la vita, in questo caso il discorso è ovviamente diverso. Dottor Ravelli, dolore addominale, lo mettiamo tra i sintomi? Sì, dolore addominale ovviamente tra i sintomi, però è un sintomo talmente comune a qualunque età della vita, anche in giovane età, per cui da solo direi che è un elemento poco discriminante. Vale la pena invece ovviamente di certamente consultare il medico, però non farsi prendere dall'angoscia nei confronti di un dolore addominale che ovviamente ha una, può avere un significato molto più banale. Molto più banale. Arrivano molti messaggi, i nostri ascoltatori sono interessati ai controlli da fare e, alla, e a quando farli, ogni quanto ripeterli. Vi leggo un messaggio di Antonella che ci chiede: per chi ha casi in famiglia, quando devono iniziare i controlli, quali e con quale frequenza? Professor Labianca. Beh, allora, come dicevo, c'è una quota di tumori del colon che hanno una forte componente ereditaria. In questo caso, questo va stabilito col medico, che deve essere quello che identifica questo rischio. In questi casi i controlli vanno iniziati sicuramente in età più giovanile rispetto alla media della popolazione. Gli screening, cioè, ad esempio? Gli screening nella popolazione generale iniziano ai 50 anni. Queste persone si dice di iniziare 10 anni prima rispetto all'età in cui al familiare è insorto un tumore di questo tipo. Però a monte ci deve essere proprio un'attenta valutazione del rischio genetico. 824 0024, Carla ci chiama da Prato, buongiorno Carla, benvenuta. Salve, sono in linea. Sì. E io vi volevo raccontare la mia esperienza. Certo. Devo ringraziare la vostra trasmissione. Le spiego, nel sì. marzo del 2008 io avevo avuto dei, a seguito dei risultati, erano altalenanti, le spiego, sì. per il colon. Una volta le feci c'era presenza di sangue, altre volte no. Io chiamai a voi e mi consigliò il professore di turno sì. di assolutamente di rifarlo e di farmi questa coloscopia. Risultato: presenza di un polifo in carcinoma degenerato. La mia fortuna è stata che era peduncolare, quindi praticamente, diciamo, la cosa, le cellule maligne erano molto, diciamo, erano presenti nella parte che era, diciamo, peduncolare. Per cui sì, io devo ringraziare voi perché feci un'altra, ho fatto la coloscopia ed è risultato questo. E ad oggi ne ho avuto un altro e quindi sono sotto controllo, ma non ho avuto nessun altro disturbo. Grazie Carla, sono contenta, sono molto contenta, perché noi continuiamo a, con l'aiuto dei nostri esperti, a sottolineare l'importanza della prevenzione. Carla, la sua testimonianza fa, come si dice, puntata. Grazie, buona giornata Carla. Andiamo a Pietro che ci chiama invece da Modena. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Io sono stato operato 12 anni fa al colon. Sì. Avevo un tumore. La mia domanda è questa, perché ho scoperto che tutta la mia famiglia, mio padre è morto così, mia zia lo stesso, e mio cugino sì, non quindi, è morto, ma è stato operato, mia sorella sì, ha avuto un tumore. Quindi ci sono casi in famiglia. La sua domanda, Pietro? Volevo sapere una cosa, dato che adesso i controlli li faccio ogni 2 anni, la mia domanda è questa: se invece di avere un polipo degenerato, dato che la mia famiglia è... viene un polipo invece del polipo degenerato viene un tumore. Sì. 2 anni non sono troppo, uno non muore. Quindi, grazie Pietro. Chi vuole rispondere? Dottor Ravelli? Ma io volentieri intervengo sulla prima telefonata, perché è un esempio classico di come tutti questi nostri sforzi che sono quotidiani possono avere questa ricaduta favorevole. La storia di questa signora è la storia di tutti i giorni per noi che ci occupiamo di prevenzione. Invitare un paziente che ha un test positivo, anche dubbio, se non ho capito male la signora ha avuto un test prima positivo, poi negativo. Sì, alternante. Ecco, quindi una sola positività nell'ambito di anche 2 o 3 indagini al sangue occulto è un'indicazione all'approfondimento. Mi raccomando. Questo è un messaggio importante, avere una negativizzazione non esiste, un solo positivo è sufficiente a dare un motivo di fare l'approfondimento con la colonoscopia. A questa signora il polipo era un polipo che si stava trasformando in un tumore, però il passaggio non era ancora completato, quindi di fatto la sola asportazione di questo polipo che aveva il peduncolo è stato è stato sufficiente per dire che questa signora è guarita. È arrivata al momento giusto, mentre per Pietro che ci chiama da Modena, quali sono, con che frequenza deve fare i controlli? Allora, questa cosa vale un po' anche lo stesso ragionamento per quel signore che ha operato 12 anni fa. Vedete, 12 anni vuol dire che quel signore è guarito dalla sua malattia iniziale. Sì. Adesso dobbiamo controllare che questo colon, che probabilmente è predisposto a farne altre, riusciamo a verificare che non ne produca una nuova, in modo tale che possiamo eventualmente intervenire anche su quella precocemente. Ciò vuol dire che i controlli successivi non devono comunque essere troppo frequenti, perché la storia di una malattia che dal nulla comincia a comparire non è mai rapida. Sì. I controlli successivi alla asportazione di un polipo o all'intervento vanno dai 3 ai 5 anni. Dai 3 ai 5 anni. E con questo periodo la persona può stare tranquilla. Ed eccoci tornati insieme. Prima di continuare ad affrontare l'argomento del giorno, oggi parliamo del nostro colon, voglio darvi una buona notizia che arriva dal mondo della ricerca. È stato scoperto un gene che favorisce l'insorgenza della SLA, sclerosi laterale amiotrofica. In linea con noi il professor Adriano Chiò, che è ricercatore di neurologia universitaria dell'ospedale Molinette di Torino ed è il primo firmatario di questo studio che è stato pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica. Professor Chiò, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. È stato pubblicato in questi giorni un lavoro che abbiamo svolto in collaborazione con gli istituti nazionali della salute americani e con un gruppo di 10 centri italiani che si occupano di SLA. Lo studio mirava a cercare geni che potessero favorire l'insorgenza della malattia nelle forme non ereditarie della sclerosi laterale amiotrofica, quelle che noi definiamo forme sporadiche, che poi sono le più comuni perché è il 90% circa dei casi. La ricerca ha raccolto circa 2.200 pazienti in Italia, in Germania e negli Stati Uniti, e attraverso una complessa analisi di sequenziamento del genoma è stato possibile individuare un gene e probabilmente alcuni geni minori in termini di significatività, che è particolarmente presente nei soggetti che sviluppano la SLA ed è invece assente nei soggetti o presente in modo meno evidente nei soggetti che non la sviluppano, cioè quelli che noi chiamiamo controlli sani. Professor Chiò, quali saranno gli sviluppi? Beh, l'obiettivo è quello di riuscire a capire prima di tutto meglio i meccanismi che causano la forma di SLA sporadica, della quale purtroppo non conosciamo la causa. Conoscere i meccanismi vuol dire nel tempo riuscire anche a giungere a terapie più mirate, più specifiche per la malattia, le cosiddette terapie intelligenti. Professor Chiò, possiamo parlare anche dei tempi? Certamente i tempi vanno definiti non brevi, perché la individuazione di un gene che può essere correlato con una malattia implica prima di tutto capire come questo gene funziona, come funziona male quando è alterato, e successivamente attraverso questa strada si può arrivare a determinare i possibili interventi. Quindi i tempi sono sicuramente dell'ordine di alcuni anni. Professor Chiò, comunque un tassello importante. Quello... è un mattoncino che abbiamo aggiunto e con l'orgoglio di essere arrivati con un gruppo italiano che ha lavorato molto bene insieme e speriamo possa continuare a lavorare, perché abbiamo la possibilità davvero di fornire importanti materiali, importanti informazioni per le ricerche internazionali. Io la ringrazio, professore, per essere stato con noi. Le auguro soprattutto buon lavoro, buona giornata, a risentirci presto. Grazie. E torniamo di nuovo a parlare del nostro colon. Ne abbiamo descritti i sintomi che possono indurci a pensare che questa parte del nostro intestino abbia un problema. Abbiamo tratteggiato l'identikit della persona potenzialmente più a rischio, anche se i controlli devono farli tutti. Parliamo adesso dei controlli, degli esami. Ne abbiamo già accennato, ma ci torniamo volentieri. Ma prima do la parola a Luca, che ci chiama da Roma, 800 24 0024. Luca, buongiorno e benvenuto. Pronto, buongiorno. Eccoci. Eccoci qua, io volevo fare una domanda a proposito della colonoscopia. Bravo, così sì, ci portiamo avanti. Perché i suoi ospiti concorderanno sul fatto che è molto fastidioso sia l'esame stesso che la fase preparatoria. Sì. E volevo chiedere ai suoi ospiti se c'è in futuro qualche esame meno invasivo e con una preparazione meno antipatica, diciamo così, per poter fare questa diagnosi di tumore o di altre patologie del colon. Ecco, questa era la mia domanda. Luca, sicuramente tantissime persone concorderanno con lei. Giro la sua domanda al dottor Ravelli. Dottore. Sì, domanda un esame antipatico. Domanda che mi aspettavo, perché il problema vero è il fatto che questa colonoscopia crea ancora oggi un po' di apprensione. Anzitutto la colonoscopia in sé, perché in questo momento c'è un grosso sforzo in tutti i servizi di endoscopia in Italia di rendere la colonoscopia meno fastidiosa, e di fatto la colonoscopia viene eseguita con farmaci che sedano il paziente, tolgono il sintomo, quindi in questo momento la colonoscopia viene eseguita per lo più in condizioni in cui il paziente non ha la percezione del fastidio dell'esame. Sì. Quindi e lo scopo principale è soprattutto quello di fare in modo che un paziente non sia spaventato all'idea di fare la colonoscopia e quindi poi rifiuti tutto quello che precede, perché poi ovviamente finiremo per creare così un rifiuto preconcetto all'approfondimento. È vero anche che è offerta sul mercato la colonoscopia cosiddetta virtuale. Sì. Che non è quindi l'esame eseguito introducendo nel retto un colonoscopio, quindi così nell'immaginario collettivo può sembrare molto meno fastidioso, prevede comunque la pulizia dell'intestino ovviamente per rimuovere le scorie. Quindi la preparazione, dottore, è identica. È diversa da quella di una colonoscopia tradizionale. Anche sulla preparazione stiamo facendo sforzi importanti per renderla meno fastidiosa, con soluzioni un pochettino più palatabili, e comunque la preparazione, che è ovviamente indispensabile, oggi viene fatta con prodotti che non danno dolore, che consentono una preparazione piuttosto tranquilla e abbastanza non violenta, diciamo così, dell'intestino. La colonoscopia virtuale viene eseguita o con la TAC o con la risonanza, per lo più con una TAC, quindi è un esame TAC in un paziente con l'intestino ben preparato e rigonfiato d'aria, quindi l'intestino deve essere pulito, viene riempito d'aria e poi si esegue una TAC. Qual è il vantaggio e qual è il limite di questa colonoscopia virtuale? Virtuale perché poi in realtà il radiologo ricostruisce le immagini del colon attraverso le immagini radiografiche che l'TAC ha raccolto. Anzitutto è un esame solo diagnostico, perché ovviamente se in questa colonoscopia virtuale si riscontra una lesione, un polipo o quant'altro, ovviamente l'aspetto terapeutico, la sola esecuzione di una biopsia o la sporgenza del polipo prevede il passaggio successivo, che è la colonoscopia tradizionale. Sì. Quindi un'indicazione generale potrebbe essere questa: bene la colonoscopia virtuale, però in un paziente, in una persona, paziente meglio non chiamiamola perché sono persone potenzialmente sane, no? Che fanno un esame però hanno veramente un basso rischio di avere una lesione. Allora se uno ha un sangue occulto positivo, meglio che faccia la colonoscopia tradizionale, perché la sua probabilità di avere un polipo è circa del 60-70%. Sì. Allora 70% di dover fare prima la virtuale e poi la normale. Se invece una persona è assolutamente asintomatica, non ha sangue occulto, vuol fare comunque un'indagine di approfondimento, benissimo, a 50 anni fa una buona colonoscopia virtuale, se eseguita molto bene, la sua certezza diagnostica è assolutamente oggi affidabile. Professor Labianca, molto è cambiato anche sul fronte della terapia. Ci aggiorna? Sì, allora la terapia fondamentale per i tumori del colon resta la chirurgia. Praticamente tutti i pazienti con la neoplasia del colon vengono operati, la chirurgia da sola è in grado di guarire una significativa percentuale di pazienti, possiamo dire almeno i 2/3 dei pazienti che vengono operati possono guarire solo con la chirurgia, ma bisogna tener conto che a seconda dell'esame istologico, in particolare se vi sono dei linfonodi intorno al tumore interessati dalla malattia, questo aumenta il rischio che la malattia si possa riformare nel colon o in altri organi come ad esempio il fegato. Quindi nei pazienti con linfonodi infiltrati dal tumore è fondamentale dopo la chirurgia fare una chemioterapia che noi definiamo adiuvante, cioè aumenta l'effetto della chirurgia, aumenta le possibilità di guarigione. Oggi abbiamo anche la possibilità di identificare altri elementi, non solo i linfonodi, che ci possano dire quali pazienti tra quelli con linfonodi normali sono comunque a un certo rischio di recidive, quindi anche in questi può essere opportuno fare la chemioterapia. Diciamo che con la chirurgia e la chemioterapia adiuvante, quando indicata, noi possiamo arrivare a guarire 75-80% dei pazienti. Ovviamente però una quota ancora non irrilevante di pazienti poi avrà una recidiva o delle metastasi nonostante la chirurgia, nonostante eventualmente la chemioterapia adiuvante, e quindi sono quei pazienti con malattia metastatica, cosiddetta in fase avanzata, per i quali comunque oggi abbiamo la chemioterapia e alcuni nuovi farmaci definiti biologici, cioè farmaci che non agiscono contro tutte le cellule come la chemio, ma solo contro particolari alterazioni della cellula tumorale, che pure in presenza di malattia metastatica sono in grado di aumentare in modo significativo la sopravvivenza dei nostri malati, e in determinati casi, se poi si può per esempio operare una metastasi epatica, anche di guarirli. Quindi abbiamo veramente dei passi avanti rilevanti, sia in termini di terapie chirurgica o anche radiante, questo però riguarda solo i tumori del retto, ma soprattutto devo dire negli ultimi anni in termini di terapia medica, cioè terapia con dei farmaci. Giorgio ci chiama da Napoli, buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno. Una domanda breve prima delle informazioni sul traffico, grazie. Sì, cercherò di essere brevissimo. È possibile pensare, immaginare che possa essere, possa avere un, eventualmente un tumore del colon nel momento in cui negli ultimi 15 giorni comunque avverto subito dopo pranzo o subito dopo cena sempre lo stesso dolore in un punto molto preciso all'altezza dello stomaco? Però non è possibile per me, credo, fare ricerche almeno attraverso le feci, in quanto soffrendo anche di emorroidi purtroppo il sangue è sempre presente. Certo. Quindi, Giorgio, io sono certa che il dottor Ravelli le darà due indicazioni molto chiare che le toglieranno ogni dubbio. Dottor Ravelli, Giorgio deve farsi due sì. Giorgio non ha detto quanti anni ha e questo è importante. Giorgio. 43. Sì, sembra. 43. Quindi è sotto il margine di rischio, questo è un altro, è un elemento. E poi per ulteriore chiarezza, Giorgio non dovrebbe dirci se c'è qualcuno in famiglia che ha avuto malattie intestinali. No. No, ecco, quindi di fatto lui non ha dei rischi legati ai suoi fattori non dovuti ai sintomi. I sintomi sono piuttosto atipici, sono piuttosto diversi da quelli che noi ci aspettiamo per un tumore del colon, quindi la risposta prima che mi viene in mente è dire no, non bisogna pensare a un tumore del colon in questo momento. E allargando invece il ragionamento, se uno ha emorroidi sanguinanti e ha un'età a rischio, non vuol dire che non può fare il test, deve fare l'approfondimento comunque nei confronti di un disturbo che non convince, al di là del fatto che abbia o non abbia documentato l'emorroide. E noi siamo tornati veloci veloci insieme. Dottor Berrino, buongiorno, benvenuto, l'aspettavamo. Buongiorno. Come sta andando il progetto Diana? Mi scusi, faccio questa piccola parentesi. Le donne rispondono? Grazie, sì, c'è una grandissima attività, no, in tutti i centri italiani, no? A Milano siamo, ma si è sempre un po' indietro rispetto al piano iniziale, no? Per cui allora colgo l'occasione, ne approfitto, certo, no, per ricordare le signore che hanno avuto un tumore della mammella negli ultimi 5 anni di che possono, se lo desiderano, no, partecipare a questo progetto che ha lo scopo di ridurre l'incidenza delle recidive attraverso l'alimentazione. Avete tutte le informazioni sul sito dell'Istituto dei Tumori di Milano e naturalmente le abbiamo anche segnalate noi sull'home page di Essere Benessere. Dottor Berrino, in linea con noi abbiamo il professor Labianca e il dottor Ravelli. Con lei vorremmo parlare, così vi siete tutti qui, con lei vorremmo parlare di dieta. Molto spesso, e noi lo sappiamo anche noi che non siamo addetti ai lavori, leghiamo il tumore del colon a una alimentazione non corretta, soprattutto a un consumo eccessivo di carni rosse, ma cosa dicono gli studi e qual è la dieta che protegge il nostro colon? Sì. Ma ecco, sui tumori del colon il rapporto con l'alimentazione è molto più chiaro, no? Gli studi sono coerenti, gli studi fatti in tutte le parti del mondo, no? Per cui siamo più sicuri, ecco, nell'indicare anche delle raccomandazioni, no? Sì. Le due principali relazioni che sono state trovate sono, da un lato, con il consumo di carni rosse, no, e di carni conservate, no, cioè i salumi fondamentalmente. Sì. E la ragione è con tutta probabilità legata alla ricchezza di ferro che c'è nelle carni rosse e nelle carni conservate, perché il ferro è un agente ossidante che favorisce la formazione di sostanze cancerogene nell'intestino. E poi ci sono degli altri aspetti che alcuni nella preparazione delle carni conservate e nella cottura delle carni rosse si formano anche delle sostanze cancerogene. Ora, naturalmente le cose sono sempre da mettere un po' in prospettiva, il rischio di cancro del polmone per un forte fumatore è di 20 volte superiore rispetto a chi non fuma, il rischio di cancro dell'intestino per uno che mangia carne quotidianamente o quasi è di 3 volte superiore, no, rispetto a uno che mangia carne occasionalmente, no, però è 3 volte superiore, è tutt'altro che trascurabile. Certo. L'altro fattore importante su cui c'è un'enorme convergenza di risultati degli studi è che chi è grasso si ammala di più e soprattutto chi ha la pancia. Ora, sì. si può ammalare anche una persona magra, però di nuovo, no, il rischio è significativamente maggiore, no, in chi ha messo su pancia. E questo proprio è una cosa, diciamo, provata. Molto, molto provata. E poi ci sono delle altre cose, naturalmente, ci sono delle altre cose molto, molto interessanti sui fattori invece protettivi che ci sono nell'alimentazione, no? E questi fattori protettivi sono soprattutto legati al consumo di alimenti ricchi di fibre. Qui gli studi non sono del tutto coerenti, nel senso che in Europa è molto chiaro, troviamo sistematicamente che le fibre provengano questo dai cereali integrali, provengano dalle verdure, provengano dalla frutta, no? Sono protettive, no? E in particolare a chi mangia carne noi diciamo sì, va bene, cerca di mangiare anche le fibre, perché il rischio alto è in chi mangia tanta carne e poche fibre. Sì. Negli studi americani invece la relazione con le fibre è dubbia, no? Ma l'alimentazione americana è molto molto alterata da, sì, vari aspetti, è molto anche, no? Diversa, per fortuna, certo. Ancora diversa dalla nostra. Per fortuna è ancora, sì, diversa dalla nostra, perché paradossalmente una dieta ricca di fibre negli Stati Uniti è anche ricca di zucchero, no? Perché le fibre vengono soprattutto dai cereals, dai cereali che si prendono per la colazione, no? Che l'industria propone sempre arricchiti zuccherati di zucchero, no? E lo zucchero, e c'è un sospetto invece consistente, anche una plausibilità biologica, che il consumo di zucchero favorisca i tumori dell'intestino, no? E quindi, ecco. Dottor Berrino, meno carne rossa, meno insaccati, più fibre, noi possiamo dire più fibre e più vegetali, poco zucchero. Che questo quadra con la raccomandazione del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che dice, no, basate la vostra alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale con un'ampia varietà di cereali non industrialmente raffinati, di legumi e la variabilità stagionale delle verdure e della frutta. Professor Berrino, io la ringrazio per essere stato con me e con noi, ci voglio sempre degli aggiornamenti freschi dal progetto Diana, la ringrazio, la saluto e ci sentiremo presto. Grazie professore. Saluto anche il professor Labianca e il dottor Paolo Ravelli che ci hanno condotto in questa trasmissione dandoci dei preziosi consigli, abbiamo analizzato tutti i sintomi, abbiamo cercato di fare chiarezza, abbiamo anche cercato di spegnere un po' la paura nei confronti della colonscopia, speriamo di avercela fatta. Professor Labianca, grazie. Grazie, grazie a voi davvero e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Ravelli, grazie a lei. Grazie a tutti e complimenti per la trasmissione, grazie. E adesso è arrivato il momento di incontrare il cavaliere del nostro cuore, il dottor Carlo Gargiulo, che per tutta questa settimana ci darà consigli preziosi per il nostro cuore, per il cuore di noi donne. Dottor Gargiulo, benvenuto e bentornato. Grazie, un saluto a lei e ai nostri ascoltatrici. Allora, dottore, abbiamo parlato di dieta e stile di vita. Cerchiamo invece di affrontare il tema delle analisi, indispensabile per tenere sotto controllo le malattie cardiovascolari. Sono arrivate molte risposte dalle nostre ascoltatrici. Devo dire che i controlli sono un po' il nostro punto dolente, li facciamo poco, ci dimentichiamo di farlo, li facciamo e non li ripetiamo. Dottore, allora, facciamo un bel piano. Sì, sicuramente è importante avere ben presente la situazione, che è quella che ci deve portare a fare almeno una volta l'anno, dicevamo sempre dopo i 40 anni, almeno una volta l'anno un controllo della glicemia e un controllo dei grassi nel sangue, colesterolo e trigliceridi. Si è visto che con questi parametri noi possiamo tenere sotto controllo quella sindrome metabolica cosiddetta e quindi sapere come dobbiamo regolarci con l'alimentazione. Glicemia è un esame semplicissimo, come anche il colesterolo, un prelievo di sangue e noi possiamo vedere questi risultati. È bene ricordare, i risultati a digiuno della glicemia non deve superare i 110 milligrammi e per quello che riguarda invece il colesterolo non deve superare i 200 milligrammi per decilitro. Importanti questi due numeri, quindi 110 e 200, da tenere ben presenti quando facciamo le analisi. Se siamo al di sotto di questo, allora possiamo anche affidarci, essere un po' più tranquilli con l'alimentazione. Se siamo al di sopra, dovremo fare un'alimentazione che è povera di grassi, di zuccheri semplici, quindi niente zucchero nel caffè, niente zucchero nel cappuccino ad esempio, niente dolci, che sono zuccheri che vengono assorbiti subito, per cui frutta, verdura ne possiamo mangiare quanta vogliamo, ma stiamo attenti agli zuccheri semplici. Della pressione parliamone velocemente, fatevela misurare dal vostro medico di famiglia, non deve superare la minima gli 85, la massima i 140. Se siamo entro questi limiti possiamo stare tranquilli, al di sopra quella mezz'ora di camminata, quei 20 minuti ci aiuteranno ad abbassarla di quasi 10 mm di mercurio, il che significa riportarla, se è poco fuori norma, dentro la norma e quindi aiutarci. Un ultimo consiglio per le ascoltatrici che purtroppo stanno aumentando le fumatrici fra le donne, un ultimo consiglio: smettete di fumare. Il fumo è assolutamente un fattore di rischio gravissimo per le malattie cardiovascolari e per le malattie polmonari. Dottor Gargiulo, abbiamo preso nota, la ringrazio e l'aspetto come sempre domani. Benissimo, grazie, un saluto a lei e alle nostre ascoltatrici. E aspetto anche a voi domani, il nostro appuntamento è come sempre alle 11 dopo il GR. Buona giornata da Nicoletta Carbone.